Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. La scorsa settimana, cari ascoltatori, siamo partiti dagli effetti economici della pandemia da coronavirus con cui stiamo facendo i conti ormai da mesi e siamo andati indietro nel tempo per parlare delle conseguenze della peste nera del 300 e della cosiddetta spagnola del 1918. Oggi proseguiamo il nostro viaggio addentrandoci nel mondo antico e abbiamo diverse e illustri testimonianze, come quella che ci viene descritta da Tucidide nel secondo libro delle storie. Qui il grande storico ateniese racconta della peste che colpì Atene nel 431 a.C. durante la guerra del Peloponneso. Ne parliamo questa sera con Antonella Prenner, che insegna letteratura latina all'Università di Napoli Federico II e che è già stata nostra ospite quando parlammo del suo bel romanzo Tenebre, l'ultima disperata battaglia di Cicerone. Buonasera e bentornata. Grazie, bentrovati. Cominciò, si dice, in Etiopia, oltre l'Egitto. Poi discese nell'Egitto, nella Libia e nella maggior parte dell'impero persiano. Su Atene piombò improvvisamente e iniziò con l'attaccare gli abitanti del Pireo. Poi arrivò nella città alta. Oltre alla malattia, gli ateniesi erano afflitti dall'inurbamento dei contadini e anche i nuovi venuti si trovavano in difficoltà. Non c'erano case disponibili e vivevano in capanne che d'estate erano soffocanti e così morivano nel più grande disordine. Anche per altri aspetti, la malattia segnò l'inizio nella città di un maggior disprezzo delle leggi. Si osava con più facilità ciò che prima si nascondeva di compiere per il proprio piacere, vivendo il rapido mutamento nella sorte dei ricchi che improvvisamente morivano e dei nullatenenti che subito si impadronivano dei loro beni. Di conseguenza, giudicando ugualmente effimere la vita e la ricchezza, volevano soddisfacimenti rapidi e cercavano il piacere. Nessuno aveva più voglia di sobbarcarsi fatiche per fini riconosciuti onorevoli, perché era incerto se non sarebbero morti prima di raggiungerli. Non li frenava più nessun timore degli dèi, nessuna legge degli uomini. Vedendo morire tutti nelle stesse condizioni, giudicavano che la religione e l'empietà avessero lo stesso valore. Dunque, professoressa Prenner, quella pestilenza, stando a quanto scrive Tucidide, ebbe conseguenze sociali e di comportamento molto evidenti. Ma sul piano più strettamente economico, Atene subì effetti rilevanti oppure contenuti? Beh, avete sentito dalle parole di Tucidide che il primo effetto evidente è lo spopolamento delle campagne ed un eccessivo inurbamento da parte delle masse contadine, quindi è chiaro che ci fu naturalmente un calo della produzione agricola e questa è una conseguenza economica sicuramente importante. In più si stima un calcolo, diciamo, di falcidia della popolazione di Atene tra i due terzi, sui due terzi della popolazione, quindi questo procurò naturalmente un calo anche della manodopera, degli schiavi, che comportò un abbassamento delle produzioni. Tuttavia bisogna considerare un'altra cosa, che Atene aveva un sistema economico chiuso, perché era appunto una città-stato, peraltro era in guerra in quel periodo, era in guerra contro Sparta e al primo insorgere dei sintomi, pensate, l'esercito spartano si ritirò proprio per evitare gli effetti del contagio. E quindi questo in qualche maniera ha contenuto il danno. Diciamo che una conseguenza, a mio avviso, molto rilevante di questa pestilenza fu politica, la morte di Pericle, che però portò con sé degli effetti economici non da poco, in quanto a Pericle Atene naturalmente deve uno dei periodi, forse il periodo più splendido della sua storia, e la morte di Pericle per la peste, di Pericle e di tutta la sua famiglia, ebbe come conseguenza anche il facile accesso alla politica di demagoghi che, approfittando anche del disordine morale, lo avete sentito dalle parole di Tucidide, che si diffuse nella popolazione un disordine che comportava il disprezzo delle leggi, addirittura il disprezzo della ricchezza che veniva spesa a profusione proprio perché non c'era più certezza di futuro, che comportò anche uno spostamento degli assi ereditari, perché Tucidide dice in alcuni passi che poveri all'improvviso si ritrovarono ricchi, ricchi per aver acquisito senza neanche aspettarselo eredità di defunti. Ecco, questo disordine economico, sociale e morale favorì i demagoghi, demagoghi che applicarono delle politiche di grosso dispendio del denaro pubblico che chiaramente tirarono fuori Atene da quella condizione di splendore che caratterizzò l'età di Pericle e poi lentamente la portarono alla perdita del suo regime democratico verso i regni macedoni quando ci fu la conquista da parte di Filippo. Ma ci sono altri esempi di gravi crisi sanitarie nel mondo antico? Certo, se lo sguardo si sposta dall'Atene del V secolo avanti Cristo all'Occidente, all'Impero Romano diversi secoli dopo, il quadro cambia completamente anche dal punto di vista degli effetti economici. C'è una pestilenza, la cosiddetta peste antonina, che si sviluppò intorno alla metà del II secolo avanti dopo Cristo sotto il regno di Marco Aurelio, che fu tremenda. E ci sono alcuni storici che effettivamente imputano a questa pestilenza quasi l'inizio della fine, che portò gradualmente proprio alla caduta dell'Impero Romano. Si stimano milioni e milioni di morti, si parla di 5 milioni ma anche di 30 milioni di morti. Chiaramente un calo demografico così consistente ebbe delle conseguenze economiche devastanti. Intanto conseguenze economiche comportavano il venir meno dei tributi dalle province, perché questa sì fu una sorta di pandemia. La pestilenza si diffuse dalla Mesopotamia, pare sia stata portata da soldati, quindi contagiò le province dell'Africa settentrionale, oltre che gran parte dell'Europa. Il venir meno dei tributi provinciali, addirittura si stima, pensate, che in Egitto ci fu un abbassamento della contribuzione superiore al 90%. L'economia romana si reggeva moltissimo sulla fiscalità provinciale. E quindi questo comportò un depauperamento delle casse dello Stato, che è evidente anche addirittura da alcune evidenze archeologiche. Pensate che nella seconda metà del II secolo non si registra un alto numero di epigrafi nella zona di Roma e nella zona dell'Italia. Questo significa che ci fu addirittura un calo dell'edilizia pubblica, un calo di opere pubbliche. E poi la conseguenza più grande fu, oltre che quelle più scontate, diciamo, quel calo di manodopera servile per le morti degli schiavi, calo della produzione agricola per la morte dei contadini, per lo spopolamento dei villaggi e per le eccessive urbanizzazioni che aggravavano ancora di più naturalmente la situazione sanitaria. Ecco, il danno forse più pesante lo subì l'esercito. L'esercito fu decimato dalla malattia, fu decimato, e questo cosa comportò? Comportò forse la conseguenza più grave. Sotto Marco Aurelio, a metà del II secolo, l'Impero Romano era all'apice del suo splendore, all'apice della sua estensione anche territoriale, e l'esercito in gran parte aveva come ruolo quello di controllare i confini. Venendo meno il controllo dei confini per l'abbassamento proprio del numero dei legionari, ebbero più facile accesso a alcune tribù dei Germani, soprattutto i Marcomanni, si parla soprattutto di loro. E quindi questa fu una conseguenza che ebbe effetti anche a lungo termine. Come dicevo prima, anche per questo alcuni storici parlano della peste antonina proprio come l'inizio di quella fase di declino che anche per questo difficile contatto tra romani e popolazioni barbariche portò poi ad una lenta decadenza e infine alla caduta dell'impero stesso. Ci fu anche un altro evento pestilenziale più o meno un secolo dopo, la cosiddetta peste di Cipriano, è definita così perché ne parla il vescovo Cipriano, la definisce come la fine del mondo. E pensate, queste pestilenze crearono danni anche dal punto di vista dell'organizzazione politica, perché durante la peste di Cipriano morì l'imperatore Claudio il Gotico, durante la peste antoniniana morì Lucio Vero, e probabilmente anche la morte dello stesso Marco Aurelio fu causata dalle conseguenze della peste, secondo qualche storico antico anche aggravata, diciamo così, da un non tempestivo intervento dei medici. Quindi lo sconvolgimento fu totale e certamente le conseguenze sociali, economiche, politiche, il disordine morale che comportarono queste pesantissime epidemie, soprattutto le epidemie, queste ultime di cui abbiamo parlato, che si sono verificate e che hanno avuto una durata lunghissima, perché la peste di Atene è durata pochi anni, si parla di 100.000 morti, qui si parla di milioni e milioni di morti. Bene, professoressa Prenner, la ringraziamo molto per essere stata con noi, ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia e Luca Cremonese in redazione, e cari ascoltatori, a risentirci la settimana prossima. Buona serata a tutti. Grazie a voi, buona serata.